Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E bentornati per una nuova puntata di Zibaldone, come tutti i venerdì pomeriggio qui su Radio Contrabanda. Di che parleremo quest'oggi? Beh, sentitevi questo brano e vediamo se lo capite. Forse vi siete resi conto che negli ultimi tempi a Zibaldone ci piace parecchio il jazz, ma perché abbiamo cominciato con questo brano che ha praticamente un secolo di vita, questa registrazione, non solo il brano. Banzo, buon pomeriggio, bentornato, lo lascio dire a te e ai nostri ascoltatori. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. È un brano che ha 99 anni, un mese più, un mese meno. That Certain Feeling, cantato da Josephine Baker, o Baker, secondo di come la vogliamo dire, alla francese o all'inglese, che è una figura che abbiamo incontrato recentemente a Zibaldone, precisamente a puntata Donne irriducibili al conformismo del 14 marzo. Abbiamo un po' parlato della sua vita, in quel caso era un brano su di lei, qui invece canta direttamente un suo brano e introduce in qualche modo, in modo molto diciamo corretto, la tematica della puntata di oggi. Comunque, prima di presentare la puntata di oggi più in dettaglio, diciamo appunto che è un brano che fa riferimento all'esperienza parigina di Josephine Baker quando era la stella nera delle Folies Bergères, come recita l'etichetta del disco in gomma lacca da cui è tratto questo brano, ed è il primo che incise dopo il suo arrivo a Parigi e generò una vera e propria mania. È curioso considerare le manie, negli anni 20, culturali a a 100 anni di distanza, ma effettivamente non è un fenomeno solo di oggi. Eh no, magari ci fossero ancora mode dedicate a figure come Josephine Baker. E in ogni caso, dai, non voglio fare il nostalgico nel senso buono e culturale del termine. Banzo, perché abbiamo cominciato con un brano degli anni 20, jazz, eccetera? Spiegalo tu e di anche immediatamente qual è il titolo della puntata di quest'oggi di Zibaldone. Beh, parleremo di jazz però con una angolazione diversa rispetto a quella di alcune puntate fa. La puntata si intitola Gramsci e il jazz, che è poi il titolo del libro che presenteremo nell'intervista nel bel mezzo della puntata, un libro di Roberto Franchi che è molto interessante perché unisce due concetti, un personaggio e un concetto che sembrano non avere molto a che vedere in comune, tipo Daniela Santanchè e lotta di classe, però scopriremo che in qualche modo effettivamente esiste una connessione, se vogliamo non profondissima, fra Gramsci e il jazz. Comunque profondissima non vuol dire superficiale, no. Non profondissima non vuol dire superficiale in questo caso. Esattamente. Ne parleremo con l'autore del libro, Roberto Franchini, ma prima c'è da presentare un altro brano. Sì, rimaniamo negli anni 20, rimaniamo in fin dei conti a Parigi, anche se in realtà siamo con il cuore negli States, perché troviamo il grandissimo Duke Ellington e His Cotton Club Orchestra con questa Black Beauty, che era dedicata a un'altra stella nera, mettiamoci le virgolette, della scena parigina di quegli anni, Banzo. Sì, esatto. Si tratta di Florence Mills, che ebbe purtroppo una vita brevissima perché scomparve nel 1927 all'età di 31 anni, e il brano di Ellington è appunto un omaggio alla sua prematura scomparsa. Cioè. Florence Mills per qualche mese sembrò poter rivaleggiare in popolarità con Josephine Baker, ma purtroppo, insomma, gli enormi problemi di salute, perché la tubercolosi, poi un'appendicite, porteranno alla fine la sua vita troppo prematuramente, veramente. E quindi sì, diciamo che in una linea alternativa, in un'altra tempolinea, probabilmente Florence Mills è diventata una stella di assoluta grandezza, ce lo auguriamo, però nel tempo che ci è toccato vivere non è successo, perché purtroppo il destino è stato molto crudele con lei, e Duke Ellington le dedicò questo brano poco dopo la scomparsa. Black Beauty, il grandissimo Duke Ellington, e dopo questo brano parleremo direttamente con l'ospite di questa puntata di Zibaldone, Roberto Franchini. Gramsci e il jazz è il suo libro, uscito lo scorso anno 2024. Thank you. Ora in collegamento telefonico con noi abbiamo Roberto Franchini, giornalista, scrittore, saggista, è stato direttore dell'Agenzia di Informazione e Comunicazione della Regione Emilia-Romagna, presidente della Fondazione Collegio San Carlo di Modena e del Festival di Filosofia. Ha scritto parecchi libri, Il secolo dell'orso, Prigioniero degli Altipiani, L'ultima nota, Musica e musicisti nei lager nazisti e il libro di cui parliamo appunto quest'oggi, Gramsci e il jazz, uscito per i tipi di biblioteca nel 2024. Innanzitutto Roberto, buon pomeriggio e grazie di accompagnarci quest'oggi a Zibaldone. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a chi ascolta. Nel libro, Roberto, tu scrivi, e cito, Antonio Gramsci non sarà certo ricordato per due lettere sul jazz, eppure non si può non rimanere ammirati per la sua insaziabile curiosità e per le sue intuizioni. Soprattutto individuò il crogiolo più interessante della nuova cultura del Novecento, ovvero Parigi. E quindi volevo partire da qui. Puoi parlarci del rapporto di Gramsci con la Francia? Com'è stato nei fatti l'impatto del jazz nella vita culturale parigina e quali sono stati brevemente i protagonisti di quella invasione, per chiamarla così? Domanda piuttosto ampia. Io sono rimasto colpito certamente dalla curiosità di Gramsci, in particolar modo verso una musica tutto sommato nuova, mentre la sua attenzione verso la Francia era tutt'altro che nuova, nel senso che Gramsci conosceva il francese e guardava con grande interesse a quel paese per ragioni storiche, per ragioni politiche, era il paese della rivoluzione francese evidentemente, ma era anche un paese in fermento per il mondo cattolico a cui Gramsci guardava sempre con interesse. Gramsci, quando era arrivato a Torino dalla Sardegna, era stato assunto dall'Avanti, cronaca piemontese, per seguire le parti culturali, tant'è vero che noi disponiamo delle sue recensioni teatrali che sono state raccolte in volume. Molto più sconosciuta era invece la sua conoscenza della musica, in particolare dell'opera, dell'operetta, della musica classica, le recensioni, gli articoli, le cronache, lui si definiva un cronista e non un critico, sono state raccolte solo in tempi molto, molto più recenti. Io sono rimasto colpito perché lui ha individuato nel jazz sostanzialmente l'avanguardia culturale che apriva la strada a, diciamo pure, all'arrivo dell'economia americana, dell'egemonia americana. I soldati americani avevano combattuto dal 17 in Europa nella prima guerra mondiale, una parte di loro era rimasta in Europa, in particolare a Parigi, facendo i lavori più diversi. Parigi era città culturalmente molto attenta al mondo africano. Ricordiamo solo, faccio un solo accenno, a Picasso, alla sua passione per le maschere africane, per la cultura iconica di quel paese. Ma Parigi fu anche la città più attenta all'arrivo del jazz. Strano, perché per ragioni linguistiche avrebbe dovuto essere Londra. Ed invece fu Parigi, grazie soprattutto ai suoi musicisti, diciamo classici, che scoprì questa forma musicale. Quindi alcuni di loro furono tra i più attenti alla musica che arrivava dagli Stati Uniti. Ricordiamo solo che il primo disco di jazz venne stampato nel 1917 e poi cominciò a essere venduto nel 1918. Tra la vendita del disco, la stampa del disco, che peraltro è dovuta ad una formazione che vedeva alla guida un italo siciliano, cioè anzi un siciliano americano, Nicola Rocca, passano appunto appena 10 anni. Quei 10 anni sono anche il periodo nel quale cominciano le trasmissioni radiofoniche. Comincia la radio anche in Italia. L'Italia ha festeggiato lo scorso anno i 100 anni della radio. Qualche tempo prima la radio aveva aperto le emissioni in Inghilterra, la BBC nasce appunto in quel periodo. Il jazz si diffonde nel mondo grazie a due strumenti, i dischi, anzi diciamo tre, gli spartiti, i dischi e le trasmissioni radiofoniche quando queste cominciano. Parigi è un punto di approdo anche di spettacoli di musicisti e in particolare è rimasto famoso l'arrivo, diciamo, di questa rivista negra, così chiamata negra, lo so che è un termine che oggi non si usa, ma allora sì, che è guidata da un sassofonista e clarinettista, Sidney Bechet, un creolo di New Orleans, che poi rimase in Francia, tant'è vero che in Francia è molto famoso, e con un corpo di musica, un'orchestra, un corpo di ballo, corpo di ballo spiccava, diciamo artista invece americana, nata a St. Louis, Josephine Baker, che divenne presto Josephine Baker, e che rappresenta l'incarnazione, l'immagine dell'Africa, lei che africana non era, ma tutti ricordano in Francia, ma anche dopo, i suoi balletti con, come si può dire, con le banane, attorno alla vita, sì, questa cosa così esotica e così discussa e discutibile è rimasta famosa, ma anche i suoi spettacoli erano chiaramente legati a una cultura esotica nera. Sì. Vi è una scoperta nel mondo che è legata. Una cosa che non c'è nel libro e che invece va ricordata è che esattamente nello stesso anno in quale Gramsci scrive la prima delle due lettere, a New York, Harlem, al Cotton Club, i proprietari scritturano una nuova orchestra guidata da un giovane musicista che si chiamava Edward Kennedy Ellington, cioè per noi il Duke Ellington, sì. E gli chiedono esplicitamente di fare musica nello stile Django style, appunto, cioè uno stile di tipo, diciamolo così, africano, ecco, la giungla africana era il loro punto di riferimento. Sì, sì. E questo è l'ultimo filo che lega gli Stati Uniti e l'Europa. Mi fermo qui intanto. No, ci sarebbe tantissimo da parlare, ti ringrazio, no, per questa panoramica che ci hai fatto. Passando direttamente a Gramsci, no, Gramsci, insomma, lo sappiamo, è sempre stato molto interessato a tutto ciò anche che veniva non solo dalla Francia ma anche dall'America e anche appunto l'attenzione per questa musica nuova e giovane, no, che arrivava d'oltreoceano. Certo. L'attenzione di Gramsci si focalizza sul fenomeno delle orchestre jazz, no? Che erano chiamate al maschile all'epoca, i jazz band, gestite, no? Cito, come catene di montaggio. In che modo il punto di vista di Gramsci anticipa qui le sue future analisi, per esempio, su americanismo e fordismo? Sì, questo è molto giusto, questa sua attenzione verso l'America nasce anche, tra l'altro, dalla lettura di due o tre libri di Henry Ford. Gramsci in carcere lesse circa 800 libri, 760 circa per la precisione, più quotidiani. Aveva visto negli Stati Uniti il paese emergente nel mondo, tant'è vero che anche le cronache dei giornalisti, per esempio il Corriere della Sera, che io cito nel libro, indicano negli Stati Uniti il paese più dinamico e più giovane, ma anche economicamente più vivace. Lui capisce che il jazz è solo l'avanguardia di un paese economicamente forte che porterà a se stesso, porterà la propria egemonia anche in Europa. Dobbiamo ricordare che in quel periodo le orchestre erano orchestre Dixieland, non erano ancora le orchestre dello swing e soprattutto erano orchestre che non si basavano di fatto sull'improvvisazione, che era molto marginale. Ecco perché lui ha questa intuizione, che in realtà riprende da articoli di giornale, di orchestre che funzionano come la catena di montaggio di Taylor, insomma, la catena di montaggio fordista. Ed è un'intuizione che in realtà non è sua, ma che poi ha fatto scuola. Ecco. Quest'idea di poter unire cultura ed economia, industria, organizzazione industriale è un'idea non banale, tutto sommato considerato i tempi e considerato anche il fatto che Gramsci stava in una celletta in un carcere italiano, certo. Avesse grandi possibilità di movimento e forse bene ricordarlo, non c'erano neanche le radio come la vostra, non c'era certamente il web allora. Assolutamente sì. E, nei quaderni e nelle lettere dal carcere, sì. Gramsci si interroga anche sul viaggio a ritroso, no? di una possibile nuova classe dirigente nera dagli Stati Uniti, certo, all'Africa, no? e la possibile salita alla ribalta di nuovi leader totalmente africani. Ovviamente non poteva prevedere quello che poi è successo decenni dopo con la decolonizzazione, il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Ecco, ma quello che ti volevo domandare, come erano viste la cultura e l'identità dei neri americani in Europa all'epoca, al di là appunto di fenomeni di costume che tu nel libro identifichi come negrofilia? Intanto bisogna considerare che c'era una certa confusione tra diciamo il negro, mi esprimo così, perché il nero americano era molto meno conosciuto della cultura nera africana. Questo è un dato sicuramente di fatto, tanto è vero che appunto Josephine Baker era considerata nera africana, la rivista era considerata così, e la parola negro che in America era ovviamente all'ordine del giorno, per gli europei, per i francesi significava ben altra cosa. Questo è un dato di fatto. Gramsci conosceva almeno due delle posizioni principali degli intellettuali neri americani, una che era quella che sosteneva la lotta per i diritti civili, l'altra che invece voleva un ritorno dei neri americani in Africa. Ed è una cosa molto, molto interessante, anche su questo non era impreparato. E lui si fa appunto la domanda che tu stesso hai oggi, adesso ricordato, cioè i neri, diciamo quelli emergenti, quelli che diventano classe dirigente, saranno poi i mediatori tra gli Stati Uniti e l'Africa in una visione del futuro, una visione che oggi potremmo dire coloniale, allora non era così, insomma. Di egemonia culturale e di egemonia economica, si domandava quale futuro avrebbero avuto i neri che potessero disporre di qualche risorsa culturale, intellettuale, accademica e soprattutto economica. È una visione troppo in anticipo sui tempi, credo. E, nel libro, cito ancora, scrivi che come era comparso senza avvisaglio alcun segnale, così il jazz scomparve dagli scritti di Gramsci. La posizione negativa mostrata dal Partito Comunista dell'Unione Sovietica potrebbe essere la risposta giusta. C'è solo questo, c'è anche dell'altro nella ragione, diciamo, della scomparsa, mettiamolo tra virgolette, del jazz dagli scritti di Gramsci? Confesso di non avere una risposta, almeno di non avere una risposta credibile, questo lo dico esplicitamente. Io stesso non sono riuscito a trovare la fonte dell'ispirazione delle lettere di Gramsci, di questa parte, delle lettere di Gramsci, anche se anticipo alcune ipotesi che si rifanno alle cronache del Corriere della Sera, soprattutto di un giornalista, di un inviato speciale che aveva un occhio molto, molto attento. Non saprei dire, credo che a un certo punto abbia abbandonato quella visione perché ancora non si era affermata, perché dall'interno del carcere non aveva più la possibilità di seguire con grande attenzione ciò che avveniva, per esempio, ciò che veniva dagli Stati Uniti, e probabilmente era costretto a seguire con maggiore attenzione tutto ciò che invece avveniva nel movimento comunista europeo e mondiale, sia in Unione Sovietica, ma sia anche per le persone al confino, le persone che erano espatriate in Francia e negli altri paesi, le sue difficoltà, la sua difficoltà anche fisica, perché la sua condizione peggiora progressivamente, e anche le difficoltà di relazione con la moglie, la cognata. Sì, sì. Questi sono alcuni degli elementi che probabilmente spostano grandemente il suo interesse e poi portano quasi certamente Gramsci a indirizzarsi verso un tentativo di analisi sulla, dopo l'affermazione del regime fascista, che più diciamo alla prima fase, ma insomma è diventato vero regime, Stato, eccetera, a interrogarsi su, sull'Italia, sul risorgimento, sulle ragioni della debolezza della borghesia italiana, sulla, anche per certi versi sulle debolezze di quel momento del movimento operaio, socialista e comunista. Credo che questo sia stato il suo spostamento dell'asse intellettuale. Sì, e dall'altra però, appunto, no, lo accennavi anche prima, c'è stato, no, poi un pregiudizio, diciamo, che si è sedimentato nel tempo di un cattivo rapporto di Gramsci con la musica, in realtà che però è appunto un pregiudizio, no? Assolutamente, si pensava che Gramsci non amasse la musica, cosa peraltro non vera, nel senso che Gramsci, gli articoli che scrisse per, anche se non firmati, che scrisse per L'Avanti di Torino ce lo dimostrano. Gramsci, ripeto, si definiva cronista, non critico, seguiva molto l'opera ma anche l'operetta, la musica classica. Vi è un episodio che nel libro non è raccontato ma che possiamo rendere noto, che quando Toscanini a Torino arrivò per una serie di concerti, molti compagni operai delle fabbriche andarono da Gramsci chiedendogli di aiutarli a trovare biglietti a un prezzo ridotto, perché loro economicamente non erano certamente ricchi, ma avevano un grande desiderio di andare ad ascoltare il grande Toscanini. E Gramsci lo fece. Gramsci, ancora libero, parlò anche addirittura con la Fiat per ottenere un aiuto, parlò con le cooperative allora esistenti a Torino, e fu un concerto che affollato di operai. Toscanini ha lasciato traccia di questa vicenda dicendo che erano stati il suo pubblico migliore. Che, voglio dire che Gramsci era anche, per poco tempo ovviamente, un operatore culturale, non solo un intellettuale da scrivania, e questo è uno degli episodi che più lo ricordano, insomma. Assolutamente no, questo è un aneddoto molto molto molto bello. Il jazz questo aneddoto peraltro è dovuto a Sandro Pertini, che fu compagno di Gramsci al confine. Certo. E il jazz comunque, Roberto, e ci avviciniamo anche alla fine poco a poco di questa chiacchierata insieme a te, ci sarebbero tante cose di cui parlare, ma il jazz, dicevamo, no, insomma, arriva anche in Italia, prima ci parlavamo di Parigi e dell'arrivo in Europa, per così dire, e insomma durante il fascismo viene in parte tollerato, in parte non tanto, e Torino è una delle capitali, chiamiamole così, del jazz in Italia. Nella prima scena torinese ci sono dei personaggi interessanti come Renato Germonio, no? Che tra l'altro trasmise poi la passione per il jazz a un tal Ferdinando Buscaglione, poi conosciuto insomma qualche anno più tardi come Fred Buscaglione. Certo, Torino fu una delle vere capitali del jazz per molti versi. Teniamo presente che, una prima cosa, molti musicisti per sopravvivere suonavano, se potevano, se erano stati accolti, nelle orchestre della RAI. Alcuni dei loro, dei più famosi, erano musicisti che lavoravano in quelle orchestre e poi, in tempo libero, diciamo così, potevano anche esibirsi nei locali, nei ristoranti. C'era uno famoso a Milano, per esempio, nella piazza del Duomo, di questi ristoranti dove regolarmente si esibivano jazzisti. L'Italia ebbe un rapporto di amore e odio verso il jazz, e di fatto il regime sapeva che il jazz era molto popolare. Intanto bisogna ricordare una cosa: il jazz era musica per ballare. E questo è il motivo del suo successo. Teniamo presente anche che lo swing era musica per ballare, ovviamente, sotto questo profilo. Per cui il jazz venne tollerato. Ci sono gli episodi che spesso si raccontano, del regime che volle cambiare il nome italiano, quindi ai titoli dei brani americani, quindi St. Louis Blues diventa Le tristezze di San Luigi, non è detto che tutti raccontano, insomma, comunque. E tante altre. Sicuramente il regime fascista, come peraltro quello nazista, sentivano chiaramente la popolarità del jazz tra la gente comune, così come a un certo punto, in prossimità della Seconda Guerra Mondiale, vi fu l'esplosione del cinema americano, in particolare era molto molto popolare in Italia, e leggendo i giornali dell'epoca si vedono le lettere degli spettatori preoccupati perché domandano al giornale, ma in realtà domandano al regime: ma non è che adesso ci vorrete far vedere solo dei film tedeschi, noi vogliamo vedere i film americani perché quelli sono i film che ci piacciono di più. E così è la stessa cosa per il jazz. In questo si unisce anche il fatto che dopo il 38 alcuni dei musicisti jazz italiani che erano ebrei hanno la vita impossibile, non possono più suonare in quanto ebrei, così come i docenti universitari non potevano più insegnare. Cambia un po' questo. Poi si dice che in realtà Mussolini avesse una collezione di dischi, e sappiamo che il figlio di Mussolini era discreto pianista jazz. Sì. E qui chiudo con un riferimento a un tuo libro precedente, sì. No? Nel 2021 era uscito L'ultima nota, lo menzionavo all'inizio, Musica e musicisti nei lager nazisti per i tipi di sì. Marietti 1820. Ecco, il collegamento ce l'hai appena fatto, no? Anche appunto in fin dei conti tra questi due testi, no? Gramsci e il jazz e tutto quello di cui abbiamo parlato, e ovviamente ci sarebbe avremmo bisogno di molto più tempo per parlarne, ma appunto già lo accennavi, no? Tra i musicisti deportati nei campi di lavoro e sterminio ci furono anche musicisti europei affini al jazz, e anche nel caso italiano è così? Assolutamente sì, nel senso che in particolare i musicisti jazz dell'area europea centrale, quindi cecoslovacchi, uso questo nome di un paese che non esiste più naturalmente, ma ungheresi e poi austriaci, tedeschi stessi, ebrei, vennero internati nei campi dove furono messe assieme orchestrine, orchestre di musicisti jazz che suonavano davanti ai cancelli dei campi, oppure come nel caso di Terezin, che era di fatto dove erano costretti gli ebrei, non era un campo di sterminio, era un campo di prigionia. Vi fu un'orchestra jazz più alcuni gruppi minori davvero di notevole qualità. Una cosa invece sui nazisti: i nazisti, che sapevano della popolarità del jazz, misero assieme un'orchestra, Charlie and His Orchestra, che è un'orchestra formata da musicisti europei, compresi due italiani di buona qualità, e incidevano dischi, li trasmettevano per radio diretti verso Londra. La particolarità di quei brani è questa, che erano brani americani ai quali avevano sostituito le parole per prendere per i fondelli Churchill è un eufemismo sostanzialmente. Certo. Però la musica era quella ed era una musica di buona qualità, e sapevano che dovevano dirigere i loro ripetitori, ecco, in questo caso ancora una radio, ma non come la vostra, verso Londra, che era il loro obiettivo principale. Mm-hmm. Insomma, ci sarebbero davvero tante cose di cui parlare, noi ci fermiamo qui. Gramsci e il jazz, l'ultimo libro uscito nel 2024 per i tipi di biblioteca di Roberto Franchini, che ci ha accompagnato quest'oggi. Roberto, ti ringrazio davvero di essere stato con noi a Zibaldone. Grazie a voi, buon lavoro. We'll be right back. Volete godervi un clima mite e mangiare bene? Venite a trascorrere l'inverno in Transnistria. Putin celebra 25 anni al potere, che lo hanno reso uno degli uomini più affascinanti e desiderati da Salvini. Lo raggiungerò in settimana, dice il ministro. Ha approfittato di 4 giorni di vacanza, ma per errore raggiunge la Florida. Secondo i tabloid americani, nessuna delle sue motivazioni è stata giudicata fondata. Sempre più VIP e star scelgono l'Italia tra mare, campagna, città d'arte. Nessuno finora è stato rispettato. Mi sento responsabile ma non colpevole. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci, in una realtà alternativa potrebbe essere Leonardo DiCaprio. Mentre cercava sul web un documentario sulla guerra del Vietnam, un giornalista ha inserito per errore in una chat sui piani d'attacco della giunta militare al potere nel Myanmar, che ha dichiarato inammissibile volere cibo, acqua, forniture mediche e la libertà. Ma la giunta precisa: la nostra risposta sarà più devastante del sisma. Dopo una serata tra amici, due giovani indignati a causa dei rincari dei biglietti aerei salgono sul tetto di un treno merci nel Livornese. Una bravata che finisce in casa di Jeff Bezos, che scherza: ho 61 anni, non mi metto in competizione con dei 25enni. Vanno semplicemente cancellati. E avete sentito che sono tornate, come sempre, anche le ultimissime del nostro caro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Fausto, che tra l'altro voglio anche ringraziare per l'aiuto fondamentale nella selezione anche dei brani musicali di questa e di tutte le puntate di Zibaldone. Banzo, un commento telegrafico su queste ultimissime, insomma, ci mostrano come sempre una realtà un po' diversa da quella che conosciamo dai media. Allora, mentre intanto raccogliamo fondi per costruire un monumento a Fausto, che è cosa buona e giusta, volevo commentare la notizia dei giovani, questi giovani che sono molto arrabbiati per il rincaro dei voli aerei e quindi decidono di salire sul tetto di un treno. Io non ho capito bene la correlazione fra le due cose, non ho capito come da Livorno, o la provincia di Livorno, siano riusciti a finire a casa di Jeff Bezos, che comunque la prende bene, la prende sportivamente, cercando di cancellarli, quindi la famosa cancel culture: non salite sui treni in provincia, non salite sui treni, non salite in cima ai treni in provincia di Livorno né altrove. Va bene, non parliamo della Transnistria, ma invece parliamo del brano con che abbiamo ascoltato poc'anzi, Sheikh of Arabi. Era una registrazione live del 1990, ma in realtà la band era una band che recuperava tra l'altro alcuni membri, il titolo lo spiega, i pionieri del jazz a Torino, che hanno fatto la storia del jazz a Torino fin dagli anni 20 e 30. E tra l'altro c'era Banzo, no, alla fisarmonica in questa formazione di pionieri del jazz torinese italiano, c'era anche un ormai anziano Renato Germonio. Renato Germonio, che fisarmonicista, appunto, che fu. Che stava suonando questo brano, questa Sheikh of Arabi, che è uno standard jazz del 1922, al Parco del Valentino di Torino, quando venne più preso a bastonate da una squadraccia di camicie nere, insomma, che è l'unico linguaggio che capiscono, lo sappiamo, quindi è particolarmente simbolico che nel 1990 Germonio fosse alla fisarmonica a suonare questo brano con i pionieri del jazz a Torino. Lui lo era a pieno titolo. E una curiosità su Germonio che ho trovato adesso su internet, che mi ha molto colpito in una biografia: viene definito pioniere del softball a Torino. Ecco, su una nota più leggera, visto che adesso abbiamo parlato di pestaggi delle camicie nere, ecco, parliamo anche di cose più allegre. Sì, tra l'altro era accompagnato al contrabbasso da un giovanissimo Fred Buscaglione, di cui abbiamo anche accennato nell'intervista prima con Franchini al Parco del Valentino, no? Quando poi fu, insomma, bastonato dalle camicie nere. E Banzo, noi andiamo avanti in questo resto di puntata, facciamo un piccolissimo, per ragioni di tempo, sguardo a alcune derivazioni, declinazioni del jazz negli anni posteriori alla tappa di cui abbiamo parlato prevalentemente, no, anche con il nostro ospite. Andiamo ad ascoltarci un brano che tutti riconosceranno, in una versione però particolare, con delle voci, attenzione, molto forse inaspettate in un brano di questo tipo. Sentitevelo qua. Le donne della terra, de boule forse della fer, la raison tonne sans cratère, c'est la version de la fin du passé, faisant le table rase, foule esclave, debout, debout. Les mondes va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. Ouvriers, paysans, nous sommes les grandes parties des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, suffira d'aux éveillés. Combien de nos chers se repèsent, les idées cordées de votre. Un seul matin disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale, groupons-nous demain. Era il 1976 e ovviamente avete capito che il brano era l'Internazionale in questa versione molto particolare. Banzo, ma secondo te i nostri ascoltatori hanno capito di chi erano le voci? Onestamente, Steven, se non l'avessi letto io non l'avrei capito, quindi passo a non sono molto riconoscibile in questo contesto, passo a svelarlo. Si trattava di De Gregori, Venditti e Dalla. Non è una gag, è anche l'ultima volta nella quale i tre hanno collaborato insieme a un disco, e quindi è una circostanza, diciamo, in attesa. Nessuno direbbe, ma sì, questa è stata la loro ultima collaborazione, e cantavano per Mario Schiano, che è una figura fondamentale del free jazz italiano, il napoletano Mario Schiano, che è stato un animatore della cultura italiana per un quarantennio, sassofonista, linguaggio free molto radicale, che ha anche contribuito ad allontanare il jazz italiano dalla dipendenza del modello americano. E Schiano era un personaggio, come vari jazzisti di quel periodo, che all'impegno musicale univa quello politico, e infatti questa versione dell'Internazionale è tratta dall'album del 76, Progetto per un inno, e diciamo che con questo titolo la versione internazionale che abbiamo appena sentito assume un significato ulteriore. Eh sì, no, tra l'altro è molto bella, e devo dire la verità, anche io al primo ascolto non mi ero reso conto delle voci, poi ecco, cercando bene, sapendo, De Gregori l'avevo colto, ma devo dire che né Venditti né Dalla, almeno così, insomma, i primi due ascolti sono riuscito a coglierli, magari poi ci torneremo. Noi però adesso facciamo un passo indietro di un paio d'anni, rimaniamo sempre negli anni 70, però andiamo al 74, è l'anno importante per questo brano, la canzone del Poder Popolare, interpretata dal quartetto di Giorgio Gaslini. Sentitevela perché merita tantissimo. Yeah. Una registrazione, come dicevamo prima, banjo del 74, concerto della Resistenza all'Università Statale, ovviamente un omaggio questa canzone al Cile, a meno di un anno dal golpe di Pinochet. Sì, effettivamente era un tema di grande attualità in quel momento, e Gaslini, che è un'altra figura che univa il jazz e l'impegno civile, rende omaggio al popolo cileno con questa versione della canzone del Poder Popular, che, se mi permetti un intervento critico, è veramente splendida, ecco. Non è molto articolato, però non ho altre parole da dire. E Gaslini, sì, appunto, è una figura che ha una carriera lunghissima che non possiamo riassumere in un intervento di un minuto. Viene ricordato per la colonna sonora di Profondo Rosso, che poi c'è anche quell'avvicendamento con i Goblin che ne firmarono il tema, che è un altro discorso, insomma, che darebbe per vari minuti di conversazione. Ma comunque, diciamo che Gaslini ha fatto di tutto, anche tentativi di teatro canzone, letture free jazz della musica classica, e sì, appunto, in quel periodo c'era la dimensione civile, che era molto, c'era anche un tempo in cui era sicuramente più presente di adesso in generale, però appunto la esprimeva con concerti nelle università occupate, nelle fabbriche, insomma, nei contesti classici che si associano all'antagonismo, alla resistenza, allo status quo, e quindi, insomma, è anche un tentativo di portare il jazz e il piano, il suo strumento, fuori dai contesti più paludati e anche più o meno direttamente reazionari. Sì, e il protagonista di questo brano era, tra l'altro, il sassofonista Gianni Bedori, che in quegli stessi anni, tra l'altro, combatteva, diciamo, nel mercato dell'easy listening con Fausto Papetti, con lo pseudonimo di Gianni Sax, un aneddoto in più. Banzo, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Zibaldone, che come sempre è volata, e ci rimane solo il tempo per presentare l'ultimo trago, ossia il brano con cui ci salutiamo, che, come i nostri ascoltatori sanno, ha a che fare con brani italiani interpretati in altre lingue, soprattutto in Spagna e Latino America, ma a volte anche in giro per il mondo. Ecco, dove andiamo quest'oggi e che brano sentiremo? Beh, in realtà oggi non si tratta di una cover necessariamente, cioè è il titolo che potrebbe trarci in inganno, perché il brano si intitola Heroes, ma non è la canzone di David Bowie, il celeberrimo inno di David Bowie. È un brano della cantante romana Ada Montellanico, accompagnata con un classico terzetto jazz, pianoforte, batteria, contrabbasso e il basso tuba del francese Michel Godard. E il brano si intitola Heroes perché menziona una serie di eroi, appunto, di Ada Montellanico, che vanno da Frida Kahlo, Malcolm X, Abby Lincoln, Nelson Mandela, Rosa Parks, insomma, sono tutti e Gramsci, nomi e Gramsci, non scordiamocelo. Esatto, era talmente, sai come si dice, per nascondere qualcosa bisogna metterlo in bella vista ed bravissimo. Era il protagonista della puntata. È una musica, no, come espressione e atto di resistenza, per usare proprio le parole dell'autrice. E tra l'altro il disco si intitola We Tuba, che non l'ho letto male io in inglese, ma è proprio la tuba, ossia il basso tuba, perché è suonato dal francese Michel Godard e quindi ha delle sonorità molto peculiari. Quindi è una conclusione direi molto particolare anche musicalmente parlando di questa puntata di Zibaldone dedicata a Gramsci e il jazz. Banzo, noi ci ritroviamo venerdì prossimo e quindi, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, alle 17.56, diceva tutti i venerdì. Comunque sì, la Santanchè e la lotta di classe si possono mettere nella stessa frase in termini di ferocissima contrapposizione. Ecco, bravo, sono d'accordo. Buon venerdì sera a tutti. Ciao Banzo, grazie, ci troviamo venerdì prossimo. Buon fine settimana, godetevi allora questa Heroes, questi sì che sono i veri eroi. Thank you.